Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, una nuova generazione di membrane osmotiche per dissalare e purificare l'acqua a basso costo. È quanto promette uno studio condotto dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'MIT di Boston e con l'Università del Minnesota, studio pubblicato su Nature Communication. Le membrane osmotiche, lo ricordiamo, sono in pratica dei filtri molto selettivi, dei setacci con dei buchi così piccoli che in pratica vengono attraversati solo dalle molecole d'acqua, e per questa loro proprietà le membrane osmotiche vengono usate appunto per purificare l'acqua e renderla potabile. Tuttavia, per spingere l'acqua attraverso questo filtro ci vuole energia molta più di quella che ci si aspetterebbe, almeno con certi tipi di queste membrane. Perché e come si può rendere meno energivora di conseguenza la dissalazione dell'acqua tramite membrane? Una risposta è arrivata appunto da questo studio italo-americano. Ci facciamo spiegare tutto da Eliodoro Chiavazzo, che è ricercatore del Multiscale Modeling Lab del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, che è naturalmente uno degli autori di questa ricerca. Buonasera Chiavazzo. Buonasera a tutti. Senta, allora, prima di procedere c'è una precisazione che dobbiamo fare, perché voi vi siete occupati di un certo tipo di membrana osmotica. Quale e perché? Sì, ci siamo occupati, come lei diceva giustamente, delle membrane a base zeolite. Una caratteristica importante delle zeolite e delle zeoliti è che, a differenza di altre membrane, possono essere sintetizzate, quindi prodotti in laboratorio o tramite processi industriali, mantenendo un ottimo controllo della dimensione dei pori. E questo ha di fatto un effetto diretto sulle caratteristiche fondamentali delle membrane per la dissalazione, che è la cosiddetta capacità di rigetto del sale, che appunto per le zeoliti può arrivare addirittura al 100%. Ecco, cioè, quindi ci sono delle alternative di altri tipi di membrane osmotiche che non sono così selettive come potenzialmente sono queste membrane zeolitiche. Poi, esatto. Queste zeoliti sono anche dei minerali che si trovano in natura, sono una famiglia complicata, diciamo, di esatto. Molto vasta di minerali. Ecco, e questa capacità di controllo c'è solo con queste membrane zeolitiche, che però hanno un problema, dicevamo, e sono molto meno efficaci di quanto non si prevedesse. E voi avete scoperto il perché. Sì, ci siamo concentrati in pratica sulla permeabilità delle zeoliti, ovvero la grandezza che gli scienziati usano per misurare la facilità con cui l'acqua riesce ad attraversare il materiale in questione. Quindi, in pratica, il parametro fondamentale a cui è legato tutta la l'efficienza di queste membrane, sostanzialmente. Esatto. In estrema sintesi, quello che abbiamo capito è che il passaggio dell'acqua attraverso la zeoliti è ostacolato non tanto dalla struttura interna dei pori, aspetto su cui tra l'altro si erano concentrati molti degli studi finora, quanto all'ostruzione dei pori sulla superficie del materiale, bloccando così l'ingresso. Come se avessimo un'autostrada larghissima, ma poi quasi tutti i caselli autostradali sono chiusi. Certo. Allora capite bene che in tali condizioni il traffico si blocca comunque ed è praticamente inutile percorrere l'autostrada. Perfetto, perfetto. Ecco, quindi quello che avete capito è che il problema non era nella struttura, diciamo, interna, per così dire, di questi materiali, ma i problemi stanno tutti lì. Sono tappati sostanzialmente i buchi in superficie da cui dovrebbe passare l'acqua. Avete capito che cosa li tappa? Sì, in realtà non abbiamo la certezza di qual è il motivo che blocca questi buchi, questi pori, diciamo così. Possiamo fare delle ipotesi, in qualche modo. Sì. Una prima ipotesi potrebbe essere il fatto che siano collassati all'estremità, per cui il poro è ostruito. Oppure ci siano delle imperfezioni tipo chimico, quindi degli atomi estranei legati al processo di fabbricazione che si pongono proprio... Si incastrano lì all'ingresso. In corrispondenza dell'ingresso, e quindi non lasciano passare l'acqua. Ecco, quindi quali potrebbero essere le possibili soluzioni allo stato attuale? Intravediamo due possibili soluzioni. Una è inventarsi un modo nuovo di sintetizzare le zeoliti. Onestamente credo che questo sia una via un po' meno praticata. Cioè, in modo che vengano fuori delle membrane con i pori aperti, diciamo. Esatto, così. Mm. Esatto. La ritengo meno probabile. Praticabile. Mm-hmm. Una seconda strada potrebbe essere quella di sbloccare i pori tramite dei trattamenti superficiali ad hoc a valle, diciamo così, della sintesi della zeolite. Ecco, sì, potrete darvi anche la cosmetica probabilmente, perché se diventate bravi a stappare pori avrete un futuro nell'industria estetica. Senta, che miglioramento di performance ci aspettiamo quando verrà trovata la soluzione? Perché non abbiamo detto, ma sono tappati quasi tutti questi pori, no? Sì, pensate che i nostri calcoli ci dicono che in pratica le prestazioni attuali si giustificano alla luce di un poro aperto ogni 100. No, non più, addirittura anche peggio potrebbe esatto. essere, no? Quindi quello che abbiamo visto è che anche una parziale soluzione di questo problema potrebbe portare a membrane con 10 volte la permeabilità attuale. Va bene, grazie Chiavazzo, e avanti così. Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.